Magazine 24, la rassegna dei settimanali. A cura di Mauro Meazza. Buona giornata, buona domenica a tutti, benvenuti a Magazine 24, appuntamento come sapete due volte alla settimana, il sabato e appunto la domenica, con la stampa periodica italiana ma anche straniera. Segnalazioni di lettura, segnalazioni di curiosità. Come sappiamo, come sanno gli ascoltatori magari più abituali di questo programma, i periodici amano il calendario, amano anticipare le date rilevanti per una qualsiasi ragione sul calendario. Naturalmente oggi è 6 marzo e martedì sarà l'8 marzo. L'8 marzo è la festa della donna. I periodici ci si sono gettati già nella settimana che si sta chiudendo con notevole sforzo di mezzi. Prendiamo qua e là, insomma, perché effettivamente le modalità con cui poi si è deciso di ricordare, di segnalare questa data, sono le più diverse. Vanity Fair, ad esempio, già ci ricorda le origini della festa. Come sapete, la festa deriva da un incendio che è avvenuto 100 anni fa, il 25 marzo del 1911, in una fabbrica di New York. Perché questo incendio è diventato così importante e poi ha dato in qualche modo origine alla festa della donna? Perché si trattava di una fabbrica in cui la Triangle Factory lavoravano tutte donne, 146 operai persero la vita per un incendio, e perché soprattutto le porte dello stabilimento erano chiuse a chiave per una curiosa forma di costrizione al lavoro che evidentemente non teneva conto dei rischi che poi potevano esserci. Tra l'altro, in questo tragico evento persero la vita anche 39 italiane. A lungo questa storia, scrive Enrica Broccardo su Vanity Fair, è stata dimenticata. Adesso un italo-americano che si chiama Anthony Giacchino, che vive nel Queens, è un regista di documentari, si è messo a ricordare, a raccogliere le storie, ha scritto 146 lettere, le ha spedite agli indirizzi dove vivevano all'epoca queste donne che rimasero appunto uccise nell'incendio. Tutte sono tornate al mittente, ma Giacchino spera che possano diventare materiale commemorativo. Vanity Fair, proprio nelle sue pagine, ritrova, sempre grazie a Enrica Broccardo, la figlia dell'ultima sopravvissuta di questo evento del 25 marzo 2011. Arlene March, attualmente ha 78 anni, 10 anni fa è morta appunto sua madre, che era sopravvissuta all'evento del 25 marzo. Aveva 107 anni, era l'ultima sopravvissuta, e tra l'altro da lei apprendiamo, da questa intervista apprendiamo, che in America questa festività dell'8 marzo non è così sentita come invece viene sentita da noi. La stessa mamma della signora raggiunta aveva deciso di rimediare in qualche modo al fatto che l'evento di cui lei si era trovata suo malgrado protagonista non venisse particolarmente sentito in America. Ci fu un'attrice e regista polacca, Beata Pozniak si chiamava, che per diffondere appunto l'8 marzo anche negli Stati Uniti scelse 5 donne simbolo. Tra queste c'era appunto la signora March, e vennero scritte le biografie di queste 5 donne, venne organizzato un incontro con la stampa, e così finalmente allora la gente venne a sapere che la signora era una delle sopravvissute all'incendio. Fino a quel momento, spiega la figlia Arlene a Enrica Broccardo, la storia era nota soltanto in famiglia. L'8 marzo quindi nasce un po' come festa collegata al lavoro delle donne. Allora mi fa piacere segnalarvi il lavoro di una collega, che è un libro che trovate in libreria da qualche giorno, si chiama Fatti più in là, e parla di donne al vertice delle aziende, ovvero delle famose quote rosa nei consigli di amministrazione. Sapete che se ne sta discutendo in molti paesi d'Europa, tra cui il nostro. In Norvegia, Spagna e Francia ad esempio sono già legge, in Germania e in Gran Bretagna sono ancora un'ipotesi di lavoro. In Italia ci stiamo lavorando, alle Camere, in Parlamento si sta discutendo appunto un progetto per prevedere delle quote fisse di di donne nei consigli di amministrazione, nei vertici delle aziende, quindi consigli di amministrazione e collegi sindacali. Dice Anna Maria Tarantola nel libro appunto di Monica D'Ascenzo, dice: con le quote rosa noi però non stiamo facendo un favore alle donne, stiamo facendo un favore al paese, perché il nostro paese non può permettersi di avere il 50% dei suoi talenti inutilizzato. Questo è il punto di partenza del libro, e poi naturalmente trovate nel volume il dibattito sulle quote rosa sia in Europa sia in Italia e i dettagli della proposta italiana con una serie di testimoni. È in libreria, 18 euro, si chiama Fatti più in là, l'ha scritto la collega del Sole 24 Ore Monica D'Ascenzo. Proseguiamo ancora con l'8 marzo, vi ho detto che effettivamente c'era una quantità di segnalazioni, una quantità di articoli molto ampia, quindi abbiamo davvero prelevato poco per darvi un'idea del molto che però c'è. Molto interessante il contributo che c'è su Famiglia Cristiana, perché ad esempio a proposito di lavoro appunto, quindi collegandoci direttamente anche alle questioni delle quote rosa, è importante capire quanto le ragazze, quindi le donne, le future donne che poi entreranno nel mondo del lavoro, pensino di sé o abbiano stima di sé, quindi l'autostima in qualche modo delle ragazze. Il Microsoft Italia ha fatto proprio una ricerca per capire qual è la visione che di se stesse hanno le ragazze adolescenti. Hanno cominciato già dai 9 anni per arrivare fino ai 16, hanno avuto 5.000 questionari, di cui 4.000 o più di 4.000 erano stati preparati da ragazze. Quindi lo scopo era cercare di capire quanto si stimino le giovanissime, questo spiega Rosanna Biffi su Famiglia Cristiana, e quanto si stimano. In realtà si stimano molto come immagine personale, come immagine esteriore, probabilmente non ancora così fortemente per quanto riguarda la propria autostima, la propria fiducia nella capacità di incidere nel mondo del lavoro. Una testimonianza che sta nelle pagine di Famiglia Cristiana proprio dedicate alla festa della donna è di Luisa, che ha delle figlie, e dice: la vita delle donne è più complessa di quella maschile, ma forse proprio per questo è più interessante. Io non faccio certo passare alle mie figlie il messaggio che a suo tempo è arrivato a me. Qual era questo messaggio? Che in fondo, essendo femmina, non era poi così importante quello che avrei studiato, perché comunque i miei compiti sarebbero stati altri. Anche volendolo, oggi non è più possibile. Per cui insisto sul discorso di studio e lavoro ben scelti e ben orientati in vista delle necessità future. Questo riferisce Luisa, una delle testimonianze sentite da Famiglia Cristiana, appunto legate al ruolo delle donne e alla festa della donna. Luisa, 45 anni e 2 figlie. Torniamo allora all'indagine su quello che pensano di sé le giovanissime. Le giovanissime, come spiega Maria Rita Passi, che poi ha diretto scientificamente il progetto, dice: emerge che sostanzialmente quasi tutti usano internet, però nel 90% dei casi poi i genitori non controllano. Mi permetto di dire alla signora Passi, alla dottoressa Passi, che non è così semplice poi controllare un teenager o una teenager che viaggia su internet, perché chiaramente sono anche molto gelose della loro intimità. Facebook è molto utilizzato anche già a 9-10 anni, ma quanto al volersi bene, direi che queste ragazze vogliono bene soprattutto alla propria immagine. Hanno un'attenzione estrema per come appaiono, anche nelle foto su Facebook, nei profili psicologici che danno di sé. Parte del materiale e le foto di queste ragazze saranno poi esposte, una selezione di queste, fino al 27 marzo alla Triennale di Milano. E diciamo come si vede, quanta stima di sé hanno le adolescenti in Italia. Tutto questo per la penna di Rosanna Biffi su Famiglia Cristiana di questa settimana. Allora chiudiamo, andiamo verso le informazioni sul traffico con un sostanziale alleggerimento. Tra le cose che riguardano naturalmente più da vicino le donne c'è la moda. Donna Moderna ha deciso di fare due pagine che devo dire sono abbastanza utili, forse soprattutto agli uomini. Sono 10 domande sulla moda che nessuno ha mai osato fare, così le ha battezzate Sara Peggion. E quali sono queste domande che nessuno ha mai osato fare? Magari solo qualche uomo così particolarmente intraprendente e non preoccupato delle conseguenze. Ad esempio, ma le scarpe con il plateau sono state inventate da uno che voleva bene o non voleva bene alle donne, essendo molto faticose da portare? Oppure, ma perché si dice che un abito di Dior del 54 è vintage e invece un maglione scolorito di 10 anni fa è soltanto vecchio? O un'altra domanda, ma perché nella moda tornano sempre gli anni 60, gli anni 70, gli anni 80? Ecco, sono state raccolte, utilizzando anche delle esperte naturalmente di moda, delle stiliste, una serie di risposte. Ad esempio quest'ultima, ma dice, ma perché nella moda torna sempre il decennio, qualche decennio precedente? Alberta Marzotto risponde, beh, la moda è una storia di eterni ritorni, quindi è un po' come se fosse strabica, guarda al passato, immagina il futuro, però avanza guardando all'indietro, e in questo modo però trasforma quello che è stato in qualcosa di nuovo. Ma è sempre andata così, perché nel periodo napoleonico le signore andavano in giro con dei vestiti che erano ispirati alla Grecia classica, quindi la tendenza della moda a guardare all'indietro per scoprire diversamente è sempre esistita. Magazine 24. Bentornati a Magazine 24. Abbiamo parlato a lungo dell'8 marzo che incombe, si avvicina la festa della donna. Adesso cambiamo argomento, parliamo invece di come stanno cambiando anche gli oggetti più familiari attorno a noi, perché su News di questa settimana c'è una pagina molto divertente con un elenco, 30 prodotti che non vengono più fatti negli Stati Uniti. Magari al titolo uno non è che rimanga tanto sorpreso, ma poi quando invece si va a scorrere l'elenco ci sono decisamente delle sorprese. La prima voce sono le bambole Barbie. Ora, sapendo come quello che significano le bambole Barbie e quello che hanno significato nei decenni anche come rappresentanti davvero della cultura americana, fa specie scoprire che non vengono in realtà fabbricate in America. Naturalmente la testa, come si dice, rimane americana, ma la fabbricazione dell'oggetto non è più americana. Questa stessa cosa succede, e sono appunto gli effetti di quella che chiamiamo globalizzazione, con le macchine fotografiche, con i telefoni cellulari, ma succede anche con delle cose che ci immaginiamo per gli americani sono assolutamente mitiche, ad esempio le scarpe da pallacanestro Converse All Star, che sono tra le più famose, se non le più famose scarpe di pallacanestro. Sapete la passione che hanno negli Stati Uniti per la pallacanestro, ebbene non sono fabbricate materialmente negli Stati Uniti. Così come non sono fabbricati più negli Stati Uniti le gomme da masticare fatte a pallina, e neanche i loro distributori, ora se ne vedono un po' meno, negli anni passati era più facile vederli, sapete quelle enormi palle di plastica che contenevano poi queste palline colorate, queste gomme da masticare colorate. Non sono più fabbricati negli Stati Uniti neanche i jeans Levi's o Levi's, come dicono loro, non è nemmeno più fabbricato negli Stati Uniti, e questo che credo sia stato anche un brutto colpo per i lettori statunitensi, il pallone da pallacanestro della Spalding, che è quello ufficiale che viene utilizzato nell'NBA, neanche lui viene più fabbricato negli Stati Uniti. Nemmeno, e chiude l'elenco perché è in ordine alfabetico, ma ci sono anche molti altri prodotti che ora vi risparmio, vi rimando a Newsweek se volete saperne di più, nemmeno i jukebox Wurlitzer. Naturalmente qui bisogna già andare a pescare su chi ha visto in azione ancora i jukebox. Ora sono oggetti che si vedono sempre più difficilmente, però questi jukebox erano un po' gli ambasciatori, anche loro a modo loro, dello stile di vita americano. Ecco, non li fanno più negli Stati Uniti, nemmeno questi li fanno fare lavorare, naturalmente altrove, là dove magari il lavoro costa meno, dove è più facile l'assemblaggio. Quindi poi la testa rimane statunitense, il prodotto rimane statunitense, ma non c'è il made in USA che invece uno si attenderebbe. E allora, visto che abbiamo parlato di jukebox e quindi di musica, andiamo sull'Espresso, perché questa settimana Alessandro Longo ci dice, con un titolo particolarmente tranchant, particolarmente deciso, che ha vinto la musica gratis, cioè che non si paga più per ascoltare musica, e quindi anche gli stessi produttori, le persone che vivono di musica, cercano degli altri canali per sostenersi, per fare in modo che il loro prodotto sia poi appunto remunerato. Mi spiego meglio leggendo appunto dall'Espresso. Sepolti i CD, anche la vendita di brani via web, cioè tramite internet, fa fatica, e le major, quindi le case discografiche più importanti, stanno arrendendosi. Distribuiranno canzoni chiedendo soldi soltanto per gli extra, oppure facendosi pagare una licenza dalle società di telecomunicazione, cioè rinunciando praticamente a percepire qualche cosa per il bene canzone, il prodotto musicale in sé per sé, quello che prima appunto dell'avvento del digitale eravamo abituati ad acquistare, che ora invece ci stiamo abituando a consumare in modo gratuito. La previsione "pagheremo solo gli extra" è di Gerhard Leonhard, è un tedesco considerato uno dei massimi esperti al mondo del fenomeno della musica digitale, ha scritto anche 3 libri, ci spiega Longo sull'Espresso. L'utilizzo di base, dice Leonhard, sarà gratuito. È chiaro che nel futuro ascolteremo musica su tutte le piattaforme, lui intende appunto dal computer al telefonino e in vari luoghi, su lettori portatili, su cellulari, sull'automobile. L'utilizzo appunto di base sarà assolutamente gratuito, noi pagheremo gli extra. Il punto di partenza da cui muove Leonhard è che l'industria del disco si trova ormai in una crisi che sembra irreversibile, il valore del mercato mondiale della musica si è più che dimezzato negli ultimi 10 anni, con una perdita continua dei ricavi. Il fatturato mondiale è passato da 36,9 miliardi di dollari del 2000 a 15,8 del 2010, quindi il fatturato dell'industria musicale è in calo. La gente, soprattutto i giovani, compra sempre meno CD, questo è noto. È un altro però il problema sconosciuto ai più, e che è stata una brutta sorpresa, scrive sempre Alessandro Longo, persino per i discografici. I servizi internet legali ci stanno mettendo più tempo del previsto a decollare, tipo iTunes, il negozio di MP3 Amazon, che sono poi gli unici che vanno benino, ma nel 2010 si calcola che siano stati illegali 19 download, cioè scarichi di brani digitali, 19 download di musica su 20, e ben 750 aziende che hanno provato a fare concorrenza a Apple con altri negozi simili hanno in realtà fallito. Quindi qual è l'evoluzione? L'evoluzione è che sostanzialmente si andrà a pagare in altro modo, l'ascolto potrebbe essere gratis per qualsiasi canzone per una volta sola, magari abbonandosi a dei servizi che potrebbero essere offerti da Google o da altri di questi operatori, che con il collegamento a internet si possa avere accesso sostanzialmente a una banca dati discografica illimitata, e quindi il pagamento non avviene più per il brano ma avviene per il tramite della pubblicità che sponsorizza il nostro stesso collegamento. Queste sono sempre previsioni di Leonhard. Un segnale di speranza, tanto per chiudere anche con un po' di forza positiva, è che la musica digitale ha fatturato comunque 22,5 milioni di euro nel 2010 in Italia ed è in questo modo cresciuta del 10% sul 2009. Tra il 2003 e il 2010 la musica digitale è cresciuta del 1000%. Certo, poi da chiedersi, e se lo chiede infatti anche Alessandro Longo, che fine faranno le case discografiche in questa rivoluzione. E qui la risposta di Leonhard: sopravviveranno solo quelle che cambieranno il modello di business e che rinunceranno al proprio ruolo di mediazione tra autore e pubblico, quindi a controllare la distribuzione. Tutto questo sull'Espresso di questa settimana. E allora dal digitale torniamo per un momento invece sulle cose molto fisiche. Da 7 del Corriere della Sera, dalla rubrica Mix, le pagine curate da Donatella Bogo, traggo questa segnalazione. C'è un record a Palermo, il 100% dei treni parte e arriva in ritardo. È un'inchiesta di Altro Consumo che ha segnalato appunto questa impossibilità di muoversi e di arrivare in orario proprio nella città di Palermo, nel capoluogo siciliano. Nella classifica, dice Altro Consumo, Palermo è al primo posto, il 100% dei treni non in orario. Questo su 7 di questa settimana, riprendendo appunto un'inchiesta di Altro Consumo. E con questa segnalazione chiudiamo la nostra puntata di oggi. Devo ancora informarvi che oggi con il Sole 24 Ore, da oggi, trovate in edicola il volume della collana Le Grandi Religioni, ve ne ho già parlato in altre trasmissioni di Magazine 24. Questa volta il volume è dedicato all'Islam, quindi verrebbe da dire di particolare attualità. È il numero 4 ed è in edicola, proposto in edicola insieme al Sole 24 Ore. Con questo chiudiamo la nostra puntata, grazie come sempre a Carmelo Lauricella questa mattina in regia, grazie ad Anita Panizza che mi ha aiutato a preparare questo programma. Se volete riascoltare questa trasmissione, se volete informazioni sulle trasmissioni di Radio 24, sulle nostre frequenze, sui conduttori, se volete scriverci, insomma, per tutte queste necessità, rivolgetevi al nostro sito www.radio24.it. Buona domenica a tutti.